Letture di Radio 24. Nel 1609 Galileo Galilei presenta il primo prototipo di telescopio, un'invenzione inizialmente accolta con diffidenza, ma destinata negli anni successivi ad essere perfezionata da scienziati di tutta Europa, come racconta Sergio Luzzato in un articolo pubblicato oggi sull'inserto culturale del Sole 24 Ore. Noi tutti abbiamo toccato con mano, molto recentemente, gli splendori e le miserie della comunicazione di una sensazionale scoperta scientifica. Settembre 2011, il CERN di Ginevra annuncia urbi et orbi i risultati di un esperimento compiuto insieme ai laboratori nazionali del Gran Sasso, che dimostrerebbe la capacità dei neutrini di viaggiare a una velocità superiore a quella della luce. Tutto il mondo ne parla, e il ministro italiano della ricerca scientifica si vanta di avere contribuito a una scoperta di eccezionale importanza, tale da revocare in dubbio la teoria della relatività generale di Einstein. Marzo 2012. Riconoscendo un errore di misurazione, il CERN smentisce che i neutrini siano più veloci della luce. Tutto il mondo ne ride e il direttore italiano dell'esperimento annuncia le proprie dimissioni. E tenendo a mente questa storia di poche settimane fa, gli onori e gli oneri di scoperte scientifiche sbandierate come rivoluzionarie, che possiamo accostarci a una storia assai più remota, ma ben diversamente decisiva. Novembre 1609, un oscuro professore di matematica dello studio di Padova, Galileo Galilei, impiega uno strano occhiale per scoprire nel cielo cose inaudite, tali da revocare in dubbio un'intera visione dell'universo. Marzo 1610, Galileo rende pubbliche in un libro, Sidereus Nuncius, le sue prime sensazionali scoperte, la presenza di montagne sulla Luna, l'esistenza di satelliti orbitanti intorno a Giove. L'edizione viene esaurita in pochi giorni, mentre Venezia tutta si interroga sull'accoglienza che al volumetto sarebbe stata riservata. Qui se ne parla in ogni angolo della città, informa l'ambasciatore inglese Sir Henry Wotton, e l'autore corre il rischio di diventare o estremamente famoso o estremamente ridicolo. Oggi noi sappiamo che le scoperte di Galileo lo resero famosissimo, piuttosto che ridicolissimo. Ma quando ci si occupa di storia, bisogna guardarsi dalle insidie del senno di poi, dal demone dell'anacronismo. Se ricostruita in medias res, la vicenda del telescopio di Galileo si presenta come tutt'altro che una success story annunciata, quasi inevitabile. E non soltanto perché lo scienziato pisano sarebbe stato costretto, da ultimo, a rinnegare le sue scoperte davanti al Tribunale del Sant'Uffizio, anche perché, da subito, vari ambienti della Repubblica delle Scienze reagirono con diffidenza al messaggero sidereo e, in generale, al telescopio come strumento di nuova conoscenza. Già nell'agosto 1609, da Napoli, un personaggio rispettato, qual era Giovan Battista della Porta, aveva scritto al principe romano Federico Cesi, il fondatore dell'Accademia dei Lincei, «Del segreto dell'occhiale l'ho visto, ed è una coglionaria». La vicenda del cannocchiale va studiata nello spazio, come una rete di storie orizzontali, prima ancora che nel tempo, come una trama di storie possibili. È quanto hanno splendidamente fatto Massimo Bucciantini, Michele Camerota e Franco Giudice, autori per Einaudi di un libro intitolato «Il telescopio di Galileo» e sottotitolato «Una storia europea». Storia cominciata nei Paesi Bassi nel 1608, quando un ottico di provincia, Hans Lipperey, accoppiando una lente concava e una lente convessa, inventa un dispositivo grazie al quale tutte le cose a grande distanza possono essere viste come se fossero vicine. Storia proseguita nella Repubblica Serenissima dell'anno dopo, quando il matematico di Padova muove da un occhiale di canna, giunto ad Oltralpe per mettere sotto i migliori vetrai e occhialai di Venezia, per mettersi lui stesso a molare lenti, insomma, per trasformare un rudimentale aggeggio da pochi ingrandimenti in uno strumento poderoso, l'occhiale di Galileo. Veneziana è la settimana cruciale di questa storia. Dal 22 al 29 agosto 1609, Galileo riesce a costruire un telescopio capace, come scrive orgogliosamente, di mostrare un oggetto lontano 50 miglia, così grande e vicino come se fossi lontano 5 miglia. Veneziana È la puntata successiva. Galileo che sale sul campanile di San Marco con i maggiorenti della Repubblica, li invita a scrutare nel mirino del suo cannocchiale, fa loro scoprire in mare vele e vasselli, invisibili, a occhio nudo, e il campanile di Chioggia quasi fosse a portata di mano. Veneziana è anche la puntata seguente, quella con Galileo che rivolge lo strumento verso il cielo e che in rapida successione, dal novembre 1609 al gennaio 1610, scopre le montagne della Luna e i satelliti di Giove. Ancora, veneziana è l'uscita del Sidereus Nuncius, pubblicato in 550 copie il 13 marzo di quel fatidico 1610. Ma continentali, davvero europee, sono le puntate ulteriori della storia. Europeo è il passaparola per cui tutta una folla di astronomi professionisti o dilettanti, di matematici, di fisici, di astrologi, di ambasciatori o dignitari di corte, di prelati di Santa Romana Chiesa, di re e di imperatori in persona, dapprima attende con impazienza la pubblicazione del Sidereus Nuncius. Poi si contende le copie del libretto con un'energia pari alla foga con cui cerca di assicurarsi sul mercato un occhiale di Galileo. Ed europea è la risonanza delle scoperte galileiane, la consapevolezza immediata e diffusa che queste, se riscontrate, avrebbero inaugurato non solo una nuova cosmologia, ma una nuova antropologia. Non solo un altro mondo, ma un altro modo di stare al mondo. Impossibile seguire qui passo passo gli autori onniscienti del telescopio di Galileo. In realtà, Galileo sapeva che la vera partita si giocava altrove, non a Bologna, ma a Praga. Galileo sapeva che un endorsement di Keplero avrebbe spalancato un orizzonte di gloria così alle nuove come alle nuovissime sue scoperte, mentre un giudizio negativo avrebbe rinfocolato la polemica intorno sia ai limiti tecnici dell'osservazione telescopica, sia ai limiti teorici della cultura ottica di Galileo. Con l'onestà intellettuale dello scienziato di razza, il tedesco Keplero finì effettivamente per rendere pubblica una sua adesione alla rivoluzionaria cosmologia suggerita, grazie al cannocchiale, da quel collega italiano tanto meno celebre di lui. E incominciò allora un'altra storia, ben nota, questa, la storia di Galileo trionfante, strapagato dai medici per lasciare la Repubblica di Venezia e ritornare nel Granducato di Toscana quale matematico e addirittura filosofo di corte. La storia di Galileo caduto, sorvegliato dall'Inquisizione, processato come copernicano, sospinto alla biura. Nell'anno di grazia 1611 la caduta sembrava ancora di là da venire. Il 22 aprile il messaggero Sidereo fu ufficialmente ricevuto a Roma dal Papa Paolo V, che neppure una parola gli chiese di dire in ginocchioni. Il fatto è che non in pubblico, ma in privato, la Chiesa affilava le armi per vendicare una fede che la scienza di Galileo, spostando l'uomo fuori dal centro del mondo, pareva drammaticamente minacciare. Fin dall'estate del 1610, corrispondendo con un amico, il protonotario apostolico Bonifacio Vannozzi, futuro segretario di Paolo V, aveva dettato la linea. Che la Luna sia terrea, con valli e colline, è tanto dire che vi son degli armenti che vi pascono e dei bifolchi che la coltivano. Stiancene con la Chiesa, nemica delle novità. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Sergio Luzzato La vista lunga di Galileo, dal settimanale Domenica, allegato al Sole 24 Ore, in edicola oggi. La Fornero accusa la scuola italiana dicendo che i nostri giovani sanno troppo poco. Ma l'imbarbarimento culturale del paese non parte dalla scuola, scrive Giovanni Pacchiano sul Corriere della Sera. E spesso sono proprio gli stessi politici a dare il cattivo esempio. Ho accolto con fastidio la dichiarazione del ministro del Lavoro, Elsa Fornero, che i nostri giovani sanno troppo poco, non conoscono le lingue, italiano compreso, e neanche i rudimenti della matematica. E prendo per buono il dato, riferito dal ministro stesso, che i giovani fra i 18 e i 24 anni con titolo di scuola media inferiore e non inseriti in altri percorsi formativi sarebbero quasi il 19% in Italia, a fronte di una media europea del 14%. Ma non è questo il punto. Il problema è che da anni ci si ostina a credere che sia compito della nostra scuola essere eccellente per cambiare la società, quando succede l'esatto contrario. La scuola non è eccellente perché la nostra società non è eccellente, per usare un eufemismo. I nostri ragazzi non sanno l'italiano? Basta ascoltare alla televisione l'italiano dei politici, lessico, sintassi, inflessioni dialettali, per renderci conto che si tratta di un duro match. Sanno troppo poco? Non solo loro. Da anni stiamo assistendo a un imbarbarimento culturale del paese, che non parte certo dalla scuola, dove le aule sono sempre più affollate e docenti malissimo pagati e pochissimo considerati dall'opinione pubblica non hanno altri incentivi se non quello della loro coscienza per svolgere bene il proprio lavoro. Ma esiste a dar l'esempio una buona coscienza collettiva e condivisa del paese? Del resto, non ci sono state, in anni recenti, riforme decisive che rinnovassero la scuola. Non quella Berlinguer, non quella Gelmini, che anzi il feticcio sostenuto dalle nuove pedagogie, delle competenze e delle abilità, si è radicalmente sostituito alla necessità del conoscere, cioè dell'epistemofilia, che è la base di ogni insegnamento. Oggi, ad esempio, si baratta volentieri la dimensione profonda della storia e della memoria, senza la quale ogni civiltà rischia di andare alla deriva, col saper fare. Certo, ci rallegra molto apprendere da un recente studio della Fondazione Agnelli che, eccezione alla regola, gli istituti tecnici negli ultimi anni hanno fatto un ottimo lavoro, non solo come preparazione da sfruttare per il mercato, ma anche per l'ingresso nelle facoltà. A patto, tuttavia, che la società dell'azione non schiacci quella della conoscenza. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Giovanni Pacchiano, Scuola italiana, fabbrica di ignoranti, le colpe dei giovani e della politica, dal Corriere della Sera dell'8 maggio.